Rockway, l'onda del rock. Buonasera a tutti, benvenuti in frequenza, questa è Blu Radio Veneto e questo è Rock Wave dopo l'appuntamento serale con lo sport e con Sergio Bortolami, che ringraziamo per averci tenuto la sedia ben calda, visto che fuori è una temperatura davvero formidabile nel senso negativo, e almeno qua noi ci riscaldiamo a suon di musica. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi è davanti a me, seppur dall'altra parte del vetro, Maurizio Calzavara. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, cosa succede questa sera, Maurizio? È una cosa molto importante. L'anno scorso, in estate, abbiamo fatto una cavalcata di tante ore con Claudio Rocchi parlando della sua musica, della sua dimensione musicale. Stasera parleremo di un nuovo disco. Buonasera Claudio, come stai? Buonasera carissimo e buonasera a tutte le amiche e gli amici che ascoltano. Bene, bene, grazie, spero tutti bene anche voi. Sì, sicuramente. Qua si sta caldo, si sta bene, si sta piacevolmente, però con te si sta sempre piacevolmente, Claudio. L'anno scorso d'estate abbiamo parlato di tutta la tua evoluzione musicale, abbiamo fatto 5 ore di diretta meravigliosi. Adesso parliamo di questo nuovo disco, ma si parte dal 1976 con la Cramps, suoni di frontiera dell'Ariston. L'Ariston aveva deciso di chiuderti la porta in faccia praticamente. Beh, l'Ariston Records era una casa discografica italiana iscritta, come tutte le italiane di allora, alla AFI, che era l'Associazione Fonografica Italiana, ed era una casa che aveva nata, immagino, alla fine degli anni 50 o nei primi 60, ce n'erano tante in Italia, c'era l'Ariston, c'era la Riffy Records, c'era la Vedette, c'era la Durium, insomma tante varie etichette, quando la discografia stava nascendo e aveva grandi spazi davanti per crescere, quindi era una casa principalmente commerciale, e quindi la sua missione era quella di fare di vendere e di venderli, certo. Ovviamente. Io ho iniziato per una serie di circostanze, perché facevo il bassista con gli Stormy Six, che era un gruppo sotto contratto all'Ariston, con loro avevamo fatto un Don't Playing, Le idee di oggi per la musica di domani, nel 1968, uscito nel 69, e quindi in qualche misura frequentavo gli uffici dell'Ariston Records. Da lì ho guadagnato il contratto editoriale, la stima dei discografici, mi hanno chiesto di fare un disco, ho iniziato a fare i dischi, ne ho fatti 7 con loro, in una vicenda che anche commercialmente ha stupito loro più che me, o quanto me, nel senso che è andata bene. E poi a un certo punto io ho deciso di smettere di fare canzoni e di fare solo musica elettronica. La cosa ha portato a un tracollo nelle vendite verticale e quindi l'Ariston, che non era una casa votata così alle avanguardie, alla ricerca, ma alla musica sperimentale, diciamo, ho deciso di, pensando che io fossi letteralmente impazzito, di chiudere il contratto. Sì, perché voglio dire, ci sono delle fasi. A quel punto, sulla mia strada, come capita spesso quando si chiudono delle porte, per il fatto stesso di essere messo fuori da una porta chiusa, ci si ritrova all'aperto in un altro spazio. un'altra porta aperta. La Cramps, e lì solito sono approdato, sì, grazie a Gianni Sassi, che era il responsabile, l'artefice, il cuore di quella casa discografica. E quindi si è chiusa una porta, si è aperto un portone, come dicevi tu, quindi si è chiusa la porta dell'Ariston, si è aperta la porta The Cramps, che naturalmente ti ha, come dire, portato fortuna, e anche qua possiamo dirlo, nel 2011 c'è questo nuovo lavoro che si intitola In Alto. Allora, subito una curiosità, Claudio, chissà quante volte l'avrai raccontato sinora, però come mai hai sistemato questo titolo così alto, diciamo? In alto perché dall'alto si vede meglio in giù, si ha una visione del campo più precisa, basta salire di qualche piano per avere una visione di quello che succede in strada molto più ampia, basta salire di qualche centinaia di metri in quota prendendo un aereo e guardare giù, le case si rimpiccioliscono, le persone diventano formichine, tutte le storie umane riguadagnano la loro dimensione strutturale, cioè infinitesimale, piccola piccola. Quello che per noi è un dramma oppure è una situazione di grande felicità, questa grande dramma, questa grande felicità, visti da 400 metri d'altezza, sono più piccoli dell'essere umano che li vive e quindi diventano microscopici. Quindi anche nel grande cosmo, nel grande universo, le vicende umane riguadagnano la loro prospettiva. E quindi che sono è vero, piccole cose. È eterna, è infinita, però è anche microscopica. E quindi anche i grandi problemi diventano piccoli problemi secondo questa visione. Ma dipende, perché sai, piccolo e grande è una visione relativa, come giusto o sbagliato, come bello o brutto. Quello che può apparire piccolissimo da un punto di vita e di vista può apparire enorme da un altro punto di vista. Lo stesso secondo di vita, che per noi è il battito di un ciglio, per un insetto che vive magari qualche ora è come 20 anni della nostra vita. Tutto è relativo, noi siamo persone, siamo soggetti e abbiamo un'esperienza personale, soggettiva, ma che tende a, come è giusto, come è naturale, a relativizzare tutto alla nostra percezione. Tu hai parlato di strategia e anche detto però che sono solo 11 canzonette di rock elettroacustico. 11 canzonette, sì, mi piace chiamarle così, anche se per la verità può darsi che certi contenuti e certi materiali sonori possano tirarle fuori così dalla definizione di canzonetta in senso più semplice e commerciale, però canzonette perché hanno la forma di canzone. Io che, come dicevo, in certi momenti della mia vita musicale di espressione ho lasciato la forma espressiva della canzone, che comunque è fatta di una strofa, di un ponte, di un ritornello, di un assolo, di un'altra strofa, di un'altra, insomma, fare canzoni ha un suo linguaggio che tutto sommato è codificato, più di tanto da quel linguaggio non ci si può scostare se si vuole fare musica in forma di canzoni. Altra cosa è scrivere musica strumentale o addirittura elettronica, al di là degli schemi, delle strutture, in totale libertà, così umorale piuttosto che emotiva, piuttosto che semplicemente sonora. Ecco, quindi queste sono canzoni classicamente intese, sono canzoni di rock elettroacustico, ci ho messo dentro dell'elettronica qua e là perché l'elettronica fa parte di me, la ricerca sui suoni è la mia vita, certo. E questa volta l'elettronica è messa, direi, in modo abbastanza discreto, con delle spennellate qua e là, nulla di indigesto o di insormontabile per qualunque palato d'ascolto o per qualunque orecchio di gusto. E ecco, in altre occasioni ho definito questo intervento di elettronica quasi impressionistico, ci sono come delle spennellature, poteva esserci un assolo di sax, sì, lì, e invece ecco che rotolano, si srotolano due o tre sequenze di materiali, certo, sonori. E in effetti quando adesso tu hai parlato di sax ho detto non l'ho sentito all'interno del disco, però in un certo senso si poteva forse carpire qualche immagine elettronica che riportava qualche fiato importante. Sì, beh certo, ci sono comunque, la musica elettronica ha grandi poteri di evocazione, quando addirittura non di riproduzione, si possono ricostruire elettronicamente suoni di ogni genere. Ci sono dei suoni, ad esempio, che sono riconducibili a un primo ascolto a strumenti, che poi in realtà, se si va a vedere sotto sotto, sono dei suoni costruiti elettronicamente, modulando, certo, dei filtri, degli oscillatori, delle frequenze. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Claudio Rocchi per la presentazione di quello che è il suo nuovo lavoro, si intitola In Alto, e vorremmo ascoltare assieme a Claudio alcune canzoni di questo album, partendo dalla traccia numero 1 che si intitola Per gli Stendardi. Allora Claudio, se sei d'accordo, la facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori, poi torniamo insieme a commentarla qui dalle nostre frequenze. Sì, certo, direi, se mi consente, aggiungerei solo un'informazione. Come già abbiamo fatto in passato in collegamento con la vostra stazione, siamo in diretta da Padova, dove sono gli studi di Blu, sì, Radio Veneto. Siamo noi. E abbiamo anche un occhio su Facebook, sul mio profilo Claudio Rocchi Volo Magico, o sulla mia pagina Claudio Rocchi. Se qualcuno che è all'ascolto volesse interagire, fare delle domande, ok, le può senz'altro postare su questo mio profilo Claudio Rocchi Volo Magico oppure sulla mia pagina Claudio Rocchi, io sarò felice di rispondere al volo. Bene, noi altrettanto facciamo mettendo a disposizione la nostra pagina Facebook, chiamando via internet Blu Radio Veneto Rock Wave, e quindi siamo lì collegati. Perfetto. Anche noi. Allora Claudio, detto questo, direi di cominciare con l'ascolto del primo pezzo, che per l'appunto si intitola Per gli Stendardi, e poi torniamo a commentarli insieme. Ok, ciao. Rockwave, l'onda del rock. Per gli stendardi da affidare al vento, troveremo campi di battaglia, cause per cui farle forza. Stendardi da affidare al vento, per i motivi da trovare a pelle, per non morire in questi tempi duri, per accordarci prima di suonare, per mille navi senza neanche un porto, per chi sa ridere del proprio orgoglio, per non scordare quanto dura il tempo, per chi sa amare come Dio comanda. Vieni qui adesso, volami addosso amore, con le ali ai piedi lasciati abbracciare. Vieni per dare un volto a questo letto, fatti esplorare che sia a posto. Questo vino che ci fa danzare, per questo fuoco che distrugge tutto, per una meta che si fa trovare, per un sorriso attorno ad ogni scoglio, per ricordare quanto è vasto il campo, per un'idea che sappia illuminare, per cieli veri pieni di stelle. Affidare al vento, per gli stendardi da affidare al vento, per gli stendardi da affidare al vento. Blu Radio Veneto. Rockway, l'onda del rock. Ed eccoci qua ancora in diretta da Blu Radio Veneto, questa è Rock Wave, l'onda del rock. Ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Stiamo piacevolmente conversando con Claudio Rocchi, appena uscito il suo ultimo lavoro, si intitola In Alto, e abbiamo ascoltato già la prima traccia del suo nuovo CD che si intitola Per gli Stendardi, e noi siamo molto fortunati perché abbiamo Claudio Rocchi in collegamento telefonico con noi. Ancora buona serata Claudio. Buona serata a voi, buona serata a tutti quelli che ascoltano e anche a quelli che Stanno già seguendoci su Facebook, vedo degli amici che fanno delle domande e che stanno ascoltando. Bene, poi avremo modo anche di parlare con questi amici. E allora, intanto commentiamo questo per gli stendardi. C'è un significato importante che riguarda gli stendardi, Claudio. Certo, gli stendardi sono ovviamente bandiere che rappresentano idealità, valori ideali, sono campi di battaglia che si immaginano fra cavalieri nobili, sono guerre che non si fanno in mezzo alle città, tra la popolazione civile, come si faceva una volta quando esistevano codici etici anche tra i militari, i guerrieri, le guerre erano fatte in campo aperto, fuori dalle città. E per non coinvolgere appunto le popolazioni inermi, esattamente il contrario di quello che succede adesso. Allora, in un campo di battaglia ideale, io sono vegetariano, pacifista, non mangio gli animali, non mangio gli uomini, e quindi mi vedo difficilmente armato di una qualsiasi arma all'attacco di qualcosa, però ciò nonostante credo che esistano momenti in cui è necessario schierarsi, prendere delle posizioni, fosse anche soltanto per prendere un ruolo nel grande gioco. È come giocare a scacchi, bisogna decidere se stare avere le pedine bianche o le pedine nere o a dama, ecco. È il più vecchio dei giochi di ruolo, si può dire, poi è stata in un certo senso mandata avanti questa capacità di gioco di ruolo, scrivendo sempre nuovi personaggi, e sempre personaggi tra i più importanti e simpatici, ma anche personaggi tra i più perfidi. Ecco, quindi gli stendardi appunto sono valori ideali che credo non debbano e non possano mancare, soprattutto in questi tempi duri, come dice il pezzo, per non morire in questi tempi duri, per gli stendardi da affidare al vento, per accordarci prima di suonare, tutta una serie di situazioni che evidenziano la necessità di ritrovarsi intorno a dei valori ideali e ritrovarsi per agire, per fare, per essere, non per lasciarsi travolgere o lasciarsi essere da altri, da noi, da circostanze che non condividiamo, da momenti che non auspichiamo né per noi né per gli altri. Il presente è difficile, non ci sono dubbi, è difficile in molti modi, quasi per tutti. Non per tutti, ma per molti, diciamo. Ecco, dal pieno, dal mezzo di queste difficoltà, credo si debba uscire con una rinnovata decisione, con una voglia di mettersi in gioco in campo aperto, appunto, scegliendo uno stendardo, essendo fedele a questo valore ideale. Poi ognuno con le armi sono dialettiche, sono creative, sono l'intelligenza, sono l'energia, la disponibilità, piuttosto che l'accoglienza. Mille armi possibili per giocare questa battaglia, però ecco, non ci si può esimere dal giocare. Certo, e musicalmente ti sei rimesso in gioco, Claudio, assolutamente, con questo nuovo disco. Qualcuno ha scritto che idealmente un collegamento col primo disco, con la Cramps a fuoco, cosa dici? No. No, non sei d'accordo su questo? Direi proprio di no. A fuoco ricordo bene che cos'era. Disco meraviglioso, tra parentesi, è stato ristampato anche questo, mi pare, vero adesso? A fuoco per me era l'esperimento di, per la prima e unica volta da allora ripetuta, di misurarmi con una scrittura per orchestra. Quindi il contrario proprio di una musica leggera, improvvisata o quasi improvvisata, perché quando si scrive per una grande orchestra bisogna proprio fare le parti del basso, dei violini, delle viole, dei celli, piuttosto che dei fiati, degli oboi, dei sax, le parti di tutti. Quindi è tutto un progetto molto, molto pensato, molto organizzato. La scrittura classica è questa. Quindi per me quelle erano canzoni che dentro una griglia molto precisa, che è quella di un arrangiamento classicamente inteso per una grande orchestra. Quindi con dei limiti, anche se vuoi, sì, un campo capito. Infinito, perché poi nessuno ti limita nella creatività, però nei limiti di una struttura formale molto precisa. Questo disco invece io praticamente sono io, nel senso che ho suonato quasi tutti gli strumenti, a parte qualche raro intervento di un gruppo di giovani jazzisti di Cerveteri che si è incrociato con me, si chiamano il Vertical Project, per cui in un paio di pezzi ci sono di assoli di chitarre di Michele D'Amato, piuttosto che di contrabbasso di Flavia Ostini, ma tutto il resto, a parte queste poche cose, sono io con tutte le chitarre acustiche, elettriche, i bassi, i ritmi, l'elettronica, e quindi è un tipo di approccio alla costruzione musicale completamente differente. L'altra cosa, ho sentito di artigianato, sì, di artigianato musicale, e che soprattutto procede su se stessa senza sapere mai, dal punto di vista della composizione, dove va a parare. Ah, perché quindi libertà totale. Base, poi non sa dove va a finire. Abbiamo sentito anche un basso molto impulsivo in questo primo pezzo. Sì, esatto. Però, io sono nato come bassista. Sì, sì, esatto. certo. L'inizio, no, sì. Però voglio dire, questa canzone forse è la più rock del disco, perché poi si andrà su quelle che sono le musiche sperimentali, e qui hai dato il massimo del basso. Beh, può darsi. Sai, il rock è un linguaggio che ha molte declinazioni, eh? Ci sono quelli un po' più tirati, un po' più sostenuti ritmicamente, sono quelli più morbidi, più larghi. Io considero tutto il disco in un impianto, per la gran parte, diciamo così, di rock elettroacustico con inserti elettronici. E poi, ad esempio, non lo so che cosa abbiamo in mente di fare noi con il prossimo ascolto, ma cosa avete in mente di suonare? Ma direi di continuare col singolo. Col singolo, se sei d'accordo. Ecco, ad esempio, no, giusto perché era funzionale al discorso del punto di vista proprio formale musicale che stiamo facendo. Sì. Per me anche questo secondo pezzo è un pezzo rock. A un certo punto il ritornello si apre in un classico: tre chitarre elettriche, una chitarra acustica, un basso, una batteria e armonie vocali. È la vita classica di un gruppo rock, quindi lo sviluppo è quello, anche se il tempo è molto più lento, è più dilatato, è più largo, e comunque e poi insomma la dimensione dal punto di vista della suggestione, del testo, del contenuto è molto sottile, perché ricordo di aver scritto questo pezzo, io vivo in Sardegna da qualche anno, quindi dall'altra parte del mare Tirreno rispetto al continente, sì, che siamo in Sardi d'Italia, e questo eccoti qui nella casa in campagna, nella campagna sarda dove vivo, dove di notte il cielo è un cielo con tutte le stelle del esistono, non ne manca una, ma ci sono anche gli uccelli della notte, là ci sono le strie, le chiamano così, che sono dei rapaci notturni, delle grandi civette bianche, oppure ancora gufi, oppure i cani che in lontananza hanno, si rincorrono nella notte. Ecco, in questo grande spazio con i suoni della notte cercavo di raccontare la cronaca di un'assenza con tutta la sua presenza. Eccoti qui, è lei che trovo ovunque la cerchi intorno, nel pozzo dove prendo l'acqua, nel fuoco che accendo per scaldarmi, perché io non ho il riscaldamento a casa, accendo veramente il fuoco che mi stufa legna per avere il riscaldamento. Ed è comunque un pezzo rock, per chiudere il discorso. Bellissimo, quindi ci hai fatto tornare la voglia di andare in Sardegna, soprattutto più che le spiagge, goderci questi bei momenti notturni che tu hai descritto. Anche perché insomma alla Sardegna, diciamo, ancora per il momento manca quel troppo inquinamento luminoso, per cui offre ancora dei cieli, soprattutto di notte, tu l'hai confermato, Claudio, che sono veramente maestosi, si può dire così. Quindi, sono cieli. Sì, sono cieli, sono i veri e propri cieli, quindi in questo caso non hai guardato dall'alto ma hai guardato verso l'alto. E allora ci ascoltiamo questo pezzo, si intitola Eccoti qui, e poi torneremo insieme con Claudio Rocchi. Rockway, l'onda del rock. Quel tipo che per andare a far la spesa guarda il mare e i falchi guidando in campagna, ecco ti sei qui che manchi a dare forma al vuoto. Eccoti qui nel pozzo dove cerco l'acqua e il fuoco. Eccoti qui nei gatti in cielo questa sera. Eccoti qui che non sei il vento e neanche la bandiera. Blu Radio Veneto. Rockway, l'onda del rock. Questo pezzo si intitola Eccoti qui, Claudio Rocchi, il suo ultimo lavoro si intitola In alto e noi ce l'abbiamo qui a telefono. Ancora buonasera Claudio e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori, sia quelli che ci ascoltano con il metodo tradizionale dell'FM, sia chi ci ascolta tramite il nostro sito internet in streaming audio bluradioveneto.it. Benissimo, allora saluti a tutti. Blu Radio Veneto trasmette da Padova, vero? Esatto, sì, sì, da Padova. Padova, siamo in onda da Padova. Io ne approfitterei, se mi lasci un secondo, sì, per certo, dare un piccolo riscontro, un veloce riscontro agli amici che ci sentono online, che stanno scrivendo sul mio profilo su Facebook. Antonio Coppola ascolta da Napoli, dice: quando un tuo ritorno all'ombra del Vesuvio. Ne colgo l'occasione per dire che a Napoli ci sono stato recentissimamente per un festival organizzato da Lino Vairetti, leader storico degli Osanna. Il festival, sì, credo la sua 18ª edizione, si chiama Afraka, ed è un festival straordinario, perché Lino è straordinario, con un entusiasmo che è secondo solo alla sua valentia di musicista. E quindi lì ho reincontrato tra l'altro persone come il balletto di bronzo che non incrociavo da decenni, Gianni Leone, personaggio straordinario. Mamma mia. E altri ancora, quindi sì, al più presto a Napoli ancora per rispondere a Antonio Coppola. Poi Emanuele Altieri, che è un carissimo ascoltatore che mi segue e mi assiste anche durante le dirette, lo saluto al volo. Norman Zoia, credo che chiami anche lui dal Veneto proprio, e dice che le canzonette sono in alto anche quando le note sono basse. Grazie Norman. Claudio Giuffrida chiede i progetti del presente, sono sicuro che ne parleremo nel corso della serata. Angelo Viandante Monti dice che c'è cielo nelle parole, quindi si suppongono che siano leggere in alto. Grazie ancora. E a te la linea, scusa questa intromissione, ma rinnovo il ringraziamento e l'invito agli amici che ascoltano online, se vogliono, di intervenire sulla mia pagina Claudio Rocchi o sul mio profilo Claudio Rocchi Volo Magico su Facebook. Tu hai parlato, Claudio, che sei stato a Napoli di recente, e la voglia di metterti in viaggio, di fare concerti, di suonare, è stata forte per questo disco, Claudio? La voglia di suonare è fortissima. È fortissimo, no, vera, è stata, è forte, è forte. La vera novità di questo disco è che dietro, davanti, sopra e di fianco a questo disco c'è una gran voglia di suonare dal vivo, cosa che ho reiniziato a fare con molto piacere e che mi propongo di fare in questo 2012 il più possibile. Io ho un paio di situazioni diverse per suonare dal vivo, quando la circostanza lo consente in termini di organizzazione e di budget, siamo una band, un gruppo, appunto, uh-huh, insieme agli amici del Vertical Project, quindi con una formazione dove io suono le mie chitarre rigorosamente processate elettronicamente, insieme a un altro chitarrista, a una ragazza bassista contrabbassista, a un'altra ragazza tastierista pianista e a un batterista, quindi siamo in cinque. Quando invece sono solo, però ho cinque chitarre con me, tutte accordate diversamente e tutte molto processate elettronicamente, per cui non dimenticate l'immagine di un voce chitarra, perché voce chitarra è molto altro. Certamente. Beh, benissimo, allora direi che tra le date del 2012 potreste aggiungere anche una tappa qui da noi in radio, naturalmente. Magari, quando passo dalle parti di Padova non vedo l'ora di venirvi a conoscere personalmente e vedere anche la radio. Mi sembra molto ben fatta e molto ben organizzata, vedo come gestite anche online la comunicazione e tutto. Sì, questo dobbiamo ringraziare anche Alberto Prisco che ci segue. Saluto Alberto Prisco che sì, è stato il mio contatto primario con Blu Radio Veneto e che probabilmente è all'ascolto, se c'è lo saluto. Assolutamente sì, all'ascolto, confermato. Musica 90, 360 gradi, Claudio. Io ho letto in un'intervista che ha perfino Lou Reed ha messo un tuo pezzo. Vero, e dobbiamo dirlo, questo te l'ha detto Massimo Villa, però è giusto riferirlo. È vero, sono andato a vedere, Lou Reed gestisce un programma radio che credo sia a New York, sia sì, in FM che online. New York Shuffle si chiama, è una cosa simile. Esatto, Reshuffle. Esatto, sì. Esatto, Reshuffle è un modo per così fare circolare la musica semi-casualmente. Mm. E ho visto che lui, fra le tante cose mie, perché ormai ho fatto 19 dischi e quindi ce ne sono tante, è possibile, ha scelto un pezzo da I Think You Heard Me Right, che si chiama Tamburi al Mercato, un pezzo molto a metafora tamburi in un mercato di Cipro, che io registrai dal vivo nell'isola di Cipro, processati poi al solito elettronicamente. E poi un'altra cosa che forse molti non sanno, gli Oasis hanno praticamente, si sono ispirati a Volo Magico numero 1. Questo degli Oasis è tosta, perché dobbiamo dirlo pure, Claudio. L'ho preso, cioè sono gli Oasis che nel loro pezzo Sunshine Supernova, esattamente, hanno il solo strumentale in mezzo che è identico, assolutamente identico a quello finale di Volo Magico, ma identico vuol dire con gli stessi accordi, la stessa progressione, lo stesso ritmo e persino formalmente le due chitarre elettriche che dialogano come nel mio Volo Magico erano Alberto Camerini e Ricky Belloni, certo, lì sono Liam Gallagher, Noel Gallagher. Credo che suoni due volte la chitarra lui stesso, ma sono due chitarre. Insomma, sorprendente. Se esiste un signore delle assonanze, come minimo è una decisa assonanza. Gli hai mandato una letterina? No, non l'ho mandata, però ho un aneddoto che non so se ho già raccontato un'altra volta, che mi conforta nell'idea che non è assolutamente da escludere che musicisti inglesi o statunitensi, che tra l'altro sono di un paio di generazioni più giovani, loro sono quarantenni, 35enni, sì, quarantenni, possano avere ascoltato e anche studiato con attenzione il periodo del rock italiano cosiddetto prog, e ne ho conferma da un carteggio che ho avuto anche anni fa con Jim O'Rourke dei, oddio, come si chiama quel gruppo? Forse chiediamo aiuto a Maurizio. Lo sto pensando anch'io, è un'amnesia anch'io. Vabbè, Jim O'Rourke in rete, Jim O'Rourke, non mi ricordo, un momento di amnesia. Un gruppo statunitense molto importante. Molto valido, sì, esattamente. Lo cercheremo. Che mi diceva che loro avevano studiato letteralmente per una settimana tutto il gruppo ascoltando nei dettagli Volo Magico, no? Ecco. Per cui non è escluso che l'abbiano sentito e che se non abbiano proprio voluto copiarlo del tutto magari sia rimasto in mezzo un qualche assonanza. Sonic Youth. Ecco, esatto, sì, esatto. Sonic Youth. Avevamo un'amnesia totale io e te, però abbiamo trovato lo stesso. Siamo arrivati. In ogni caso è una cosa molto positiva questa. Vuol dire che la tua musica non ha confini, Claudio. Va. Vabbè, la musica non ha confini. In ogni caso, però soltanto. Anche la tua in questo particolare caso, sì. Con la rete tutto è molto, si avvicina e di molto anche. Allora, stiamo parlando con Claudio Rocchi, in alto il suo ultimo lavoro, ma stiamo spaziando anche a parlare di altre cose. E, allora Claudio, facciamo ascoltare un altro pezzo del tuo ultimo lavoro. Sì. Direi di proseguire, visto che la traccia numero 3 si intitola Facci un miracolo. Facci un miracolo. Entra a bomba nel presente. In mezzo alla frustrazione dilagante, ecco che a volte sorge spontaneo, più o meno inconsapevole, una sorta di anche non voluta preghiera, no? Facci un miracolo, è una preghiera laica, non necessariamente religiosa, però ci si aspetta che qualcuno abbia la volontà prima di tutto e poi la capacità e il potere di fare qualcosa di miracoloso che ci cambi l'esistenza. Poi i gesti miracolosi non dovrebbero nemmeno essere poi così straordinariamente eclatanti, basterebbero piccole cose a farci la vita diversa. Ad esempio nella canzonetta io alla fine in questa preghiera dico, non si sa bene a chi, probabilmente al Presidente del Consiglio, perché o a qualcuno che gestisce le leve del potere amministrativo, sì. Dacci un telegiornale senza cronaca nera, perché non se ne può più di questo massacro terroristico che inquina menti e coscienze con una sequenza di eventi drammatici, come se veramente non ci fosse altro. Non è vero, è vero che esistono molti eventi drammatici, ma è vero anche che esistono quotidiani online e anche negli Stati Uniti stampati di sole buone notizie, no? Solo che le buone notizie sembra che non debbano essere fatte circolare. Io invito tutti quelli che frequentano la rete a andare a cercare i Good News Reports, i notiziari di buone notizie, ci sono sia in lingua italiana che in lingua inglese, di sicuro, questo lo so perché li ho visti, per rifarsi un attimo il palato, un equilibrio, perché tra potenti corrotti, ladri, sfratti, stupri, furti, incendi, maremoti, terremoti, dolore, distruzione, sembra proprio che non ci sia speranza. E c'è persino chi sostiene che dietro tutto ciò ci sia una sorta di maliziosa strategia per spaventare la gente in modo di farla di tenerla chiusa in casa, in modo che quando si è chiusi in casa non si sviluppa niente, quando ognuno sta chiuso nella sua casa, perché è vero che è bello condividere in internet, però è molto diverso e ha un ben diverso respiro, una ben diversa portata condividere qualcosa quando ci si trova in 100, in 1000, in 10.000, come succedeva e come succede a volte in decine di migliaia di persone, no? Abbiamo sotto gli occhi anche grandi e importanti evoluzioni in certe zone del pianeta che fatte di persone che grazie anche alla comunicazione di rete poi si sono ritrovate in piazza a fare la differenza e a mutare gli scenari politici, sociali, economici dalla sera alla mattina o da una settimana all'altra. Certo, e comunque sempre la protesta monta su internet, però poi deve scendere obbligatoriamente in piazza. Ecco, e quindi Facci un miracolo, il terzo pezzo di questo mio nuovo lavoro che si chiama In alto. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Rockway, l'onda del rock. Blu Radio Veneto. Rockway, l'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato anche questo pezzo, si intitola Facci un miracolo, in alto il titolo del nuovo lavoro di Claudio Rocchi. Abbiamo già commentato con Claudio parte di questo Facci un miracolo, ma già un bel miracolo è quello di ascoltare ancora la tua bella musica, Claudio. Beh, ti ringrazio, sì, è un miracolo, in effetti. Un miracolo. No, un miracolo nel senso, sì. Io mi prendo un attimo, un altro momento, se me lo concedi, per rispondere, sì, al volo ad amici e amiche che postano su Facebook. C'è la signora Benedetta Gracalic che dice: ma forse il signor Claudio Rocchi vuole entrare in politica? Il signor Claudio Rocchi ha l'incauta convinzione di essere in politica da molto tempo. Magari non in un senso tradizionale, in una politica partitica, così, che secondo i giochi comunemente intesi. Quando ero ragazzo si parlava di politica dell'estasi e si illuminava il futuro nella speranza di poter accelerare in velocità le consapevolezze e le coscienze, muovendo una comunicazione molto veloce. Per questo molti di noi, che hanno avuto 20 anni negli anni 70, hanno creduto seriamente di poter cambiare il mondo e ci hanno creduto fino in fondo. E in qualche misura anche hanno contribuito a cambiarlo, anche se sembra che non sia cambiato nulla, io non sono d'accordo, molte cose sono cambiate e di molto. Quindi entrare in politica, se intendiamo, tra l'altro ultimamente, sì, perché no, certo, non è detto che non succeda. La politica è l'esperienza, la politica è la vita, ma la politica è anche la politica reale. Adesso nel presente si riflette da tanto tempo su quanto la politica dei partiti, del governo, del Parlamento, del Senato sia distaccata dalla vita dei cittadini, ad esempio. E che sì. Ci sto riflettendo in questo periodo e penso che forse si potrebbe fare di meglio, forse si potrebbe... non credo che si possa mai colmare il gap che c'è fra cittadini, gente comune e politici, perché la politica per natura ha dei suoi linguaggi che allontanano dalla vita di tutti i giorni. Certo è che credo si potrebbe fare qualcosa di in qualche modo rivoluzionario, affiancando a quelli che sono proprio a quella che è l'architettura di base dello Stato italiano, con i tre poteri riconosciuti, quello legislativo, amministrativo e giuridico, a riportare in vita un quarto potere che nella storia ha fatto la differenza quando sono cambiati i sistemi molto velocemente, che è il potere della gente, il potere civico. Per cui di fianco, io che per farla molto breve sto elaborando questi concetti insieme ad alcuni amici, in particolare a un amico bresciano che ci ha pensato su parecchio. Si potrebbe lasciare il governo e il Parlamento ai partiti e ai politici e invece dare il Senato, nel senso più nobile di quello che il Senato dovrebbe essere per tradizione classica, cioè le persone più anziane, più mature, certo. Si presume più sagge, che abbiano vissuto, che abbiano realizzato, compiuto, avuto esperienza, esperito. Potrebbero essere i senatori gente che è in qualche misura lasciato il segno nelle arti, nella cultura, nello spettacolo, nell'amministrazione, ma anche nell'artigianato, insomma anziani di esperienza che non abbiano nessun contatto con i politici. E per bilanciare i poteri, se da una parte i politici hanno il governo e il Parlamento, i cittadini dovrebbero avere il Senato e la Presidenza della Repubblica. Col Presidente della Repubblica, estremo garante dei cittadini, eletto dalla gente ovviamente e non dai partiti, e questa struttura quindi di un organismo, il Senato garantito dal Presidente della Repubblica, che faccia la dialettica. Scusa, abbiamo perso forse, eccolo qua. Sì. In tutta l'architettura dello Stato, nelle regioni, nelle province, nei comuni, dove di fianco ai giochi di potere classici dei partiti ci siano i rappresentanti dei cittadini, che se c'è da decidere con buon senso se dipingere il muro di una scuola comunale gialla o verde, non si rifacciano alle logiche degli appalti della destra e della sinistra, che la destra vuole farla gialla perché ha un appalto da dare a chi ha la vernice gialla, la sinistra vuole farla verde perché ha un appalto da dare a chi vuole farla verde. No, ecco, per scelte di questo genere che riguardano la vita quotidiana, la vita dei cittadini, dovrebbe essere proibito riferirsi ai mandati di stretta osservanza politica. Ma Claudio, questa forse rimarrà sempre e solo un'utopia, perché voglio dire... Ma non lo so, perché no. Dipende, sai, non lo so. Perché della storia che conosciamo noi c'è stato gran poco movimento in questo senso. Ma voglio dire, noi ci aspettiamo sempre che qualcun altro si muova per scodellarci la minestra calda, capito? Ma poi alla fine i cittadini siamo noi, ragazzi e ragazze, certo. All'ascolto di Blu Radio Veneto, chi sono i cittadini? No? I cittadini a un certo punto è utile che si svegliano, da molte parti nascono le liste civiche, tutte queste cose, che però sono associate a una sorta di antipolitica, no? come se dentro quel gioco non ci fosse speranza. Io lo credo abbastanza che dentro quel gioco ci sia poca speranza, ma non al punto di volere introdurre in quel gioco un elemento nuovo, una variante impazzita che sfugga al controllo della politica, cioè il potere civico. Per cui chissà, forse resta un'utopia, forse prima o poi ci si ritrova, io potrei fare il senatore, ad esempio. Beh, sei ancora giovane per fare il senatore. Sì, potrei. Sì, ma, sì, sì, sì, però... ma noi non stiamo parlando di vecchi o giovani, stiamo parlando di anziani e di persone sì, comunque che hanno certa esperienza. Sì. No? Quindi... Ma certo, sì. Ma ci si aspetta che il Senato della Repubblica dovrebbe essere fatto da persone di cui ci si fida, che certo, hanno esperienza, no? Che poi abbiano un minimo di credibilità. No? Invece purtroppo a volte, soltanto a volte, abbiamo degli esempi veramente inqualificabili, inqualificabili e squalificabili. Ma la musica ha questo potere anche, Claudio? Può arrivare a questo la musica? Può aprire queste strade, secondo te? La musica può aprire qualunque strada, perché la musica è energia vibrazionale, la struttura intima della materia è energia, e la musica è energia allo stato puro risonante. Così l'ho detto molte volte, ma lo dico ogni volta. Adesso mentre parlo vedo il diagramma del vostro player che dà la diretta online, sì, con i LED che seguono la modulazione della mia voce. Certo. Se voi guardate, ammesso che abbiate mai visto un oscilloscopio, uno strumento sì, dove si vede la forma d'onda proprio di un suono, di una voce, okay, vedrete che le frequenze hanno un andamento classico, hanno dei picchi in alto, dei picchi in basso, e fra i picchi in alto e i picchi in basso c'è la larghezza fra un picco e l'altro, è l'ampiezza del campo, quindi altezza, profondità e ampiezza sono le tre caratteristiche del suono, ma non solo del suono, dell'energia, e l'energia è l'anima della materia, per cui la vecchia apparente contraddizione materia-spirito, materialismo-spiritualismo è semplicemente un'informazione sbagliata che dobbiamo levarci dal cuore e dalla memoria genetica, perché non esiste il dualismo, la dicotomia materia-spirito, non esiste. La materia è solo una frequenza più bassa della stessa energia che, risuonando su una frequenza più alta, viene chiamata spirito, e quindi non c'è contraddizione, non può esistere un pianoforte solo con le note alte o solo con le note basse, no? Su qualunque strumento, su qualunque tastiera abbiamo un'escursione di ottave dove si ripetono le stesse note di ottava in ottava con frequenze sempre più alte o sempre più basse a seconda che si salga o che si scenda. Ecco, questa ampiezza del campo dà la misura di come anche la cosiddetta materia possa essere modulata da qualunque altra energia. Certo. Quindi da qui arriviamo nei territori che io ho sempre elettivamente esplorato per mia curiosità personale, che sono quelle della metapsichica, degli apparenti poteri para cosiddetti normali, cioè del mondo di quello che c'è ma non si tocca, non si vede, non si ascolta e non si annusa e non si gusta. C'è ben altro quello che noi possiamo percepire con i nostri sensi. Mi piaceva molto, a proposito di sensi, Claudio, una tua spiegazione che davi in un concerto di quelli che sono i cinque sensi e di quella che è l'anima e di quella che è la mente rappresentata da un cocchiere. Ce lo vuoi dire anche stasera? Sì, beh, quella è un'allegoria classica della cultura vedica che io ho studiato per parecchi anni, quando ho fatto il monaco induista per 15 anni, tra i miei 29 e i miei 44. L'immagine è molto semplice, l'immagine è quella di un carro sul quale, un po' come una biga, sapete le bighe dei romani, forse ricorderete l'immagine, con un'auriga, cioè un cocchiere che sta in piedi, che ha in mano le briglie, e queste briglie vanno a governare cinque cavalli, quindi sono cinque cavalli che hanno ovviamente delle briglie, il cocchiere ha in mano le briglie, il cocchiere è in piedi su un carro. Allora, l'allegoria dice che i cinque cavalli davanti sono i sensi di percezione grossolani, classicamente intesi, quindi il gusto, l'olfatto, l'udito, la vista e il tatto. Sì. Tatto sì, preciso. No? Il cocchiere è la persona. Per persona nell'assunto vedico si intende l'anima, l'essere spirituale eterno, quello che loro chiamano il jiva. No? Il carro è il corpo. Allora l'idea è che perché l'assunto vedico non identifica la persona con il corpo, ma identifica la persona con il guidatore del corpo. Cioè, secondo loro, noi le gli esseri viventi in tutte le specie, anche nella specie umana, entrano in un corpo al momento della nascita, escono dal corpo al momento della cosiddetta morte, che in sanscrito appunto si traduce con una circonlocuzione che suona come lasciare il corpo. Non esiste il verbo morire, perché quel guidatore, quella persona è un essere eterno che non muore mai, secondo l'assunto vedico. Quindi la persona, il guidatore, farà un viaggio tranquillo, senza scossoni, sul carro, quindi nel corpo, se attraverso l'intelligenza saprà tenere, e l'intelligenza sono le briglie che sì. Tengono legati i cavalli, governare i sensi. Allora, il punto è che se i cavalli, i sensi, saranno guidati dal cocchiere con intelligenza, il risultato sarà che il carro farà un viaggio tranquillo e il passeggero nel carro non avrà scossoni. Se invece i cavalli rompono perché il cocchiere non è capace, attraverso l'intelligenza, di tenere a bada i sensi, i cavalli, il risultato sarà che un cavallo tira a destra, l'altro a sinistra, l'altro rompe in alto, l'altro in basso, sarà un viaggio a scossoni terrificanti per il povero passeggero, che farà un viaggio molto scomodo. E che allora, ecco, allora che si presume di essere capaci di controllare i sensi, i cavalli. Bene, allora abbiamo capito che Claudio ha tante cose da raccontarci. Tra le altre cose, adesso noi stiamo facendo i conduttori a Blu Radio Veneto, ma Claudio ne ha fatte di conduzioni radiofoniche. Sì, ne ho fatte diverse. Come mi piace molto fare radio, l'ho fatta ho cominciato prestissimo, ho fatto molto a Radio Rai, ho fatto programmi nei primi anni 70 anche di una certa notorietà, perché non esistevano le radio libere e la Rai al pomeriggio Radio 2 faceva Per voi giovani, che era un programma molto seguito da quelli così della mia generazione, che ci ha consentito di fare ascoltare tutta la musica rock americana, inglese, europea e internazionale che viaggiava in quegli anni, che era la grande musica che ancora adesso guida i linguaggi delle musiche del presente. Non c'è veramente molto poco di nuovo nel presente musicalmente, in termini di linguaggio, di modo espressivo. Il rock è sempre il rock, l'elettronica ha cominciato a affacciarsi a un certo punto a metà anni 70, grazie soprattutto agli inputs dei tedeschi in Europa, di certi americani, la Monte Young, Terry Riley, piuttosto che Phil Glass, che hanno cominciato a declinare certe tecniche di scrittura ripetitiva assimilate dai modi proprio della musica orientale, con le sonorità dei primi organi elettronici, le tastiere, poi i sequencer, i sintetizzatori, tutte queste cose. In Germania abbiamo avuto gente come i Ken, i Noi, che facevano del kraut rock, del rock intriso di elettronica già negli anni 70. Poi abbiamo avuto i cosiddetti Corrieri Cosmici, abbiamo avuto Popol Vuh, abbiamo avuto Ashra Temple, abbiamo avuto Tangerine Dream, abbiamo avuto Kraftwerk, Klaus Schulz, Manuel Gosching e tanti altri, che hanno dato un impulso eccezionale a quella che poi è diventata la ricerca di tutti i nuovi che ora i ragazzi che ora fanno musica elettronica nelle varie declinazioni, dance, floor, trance, che fanno musica da discoteca in questi nuovi rituali della discoteca, che viaggiano sulla musica elettronica, che ora è un attimo diventata un filino, fin troppo credo, ludica, appunto, e basta, mentre allora il suono, l'esperienza di ricerca nei suoni aveva un senso conoscitivo. Il suono era per espandere la coscienza, viaggiare sulle vibrazioni sonore per andare lontano, no? Come nella cultura vedica Narada Muni ha una vigna, che è una specie di liuto indiano, di sitar, di tampura, che lui suona con le dita, e questo strumento emette una vibrazione sonora tipo quella del sitar, tipo così. E lui viaggia a cavallo delle onde sonore, certo, per gli universi, no? Ecco, così, questa è la funzione della musica, fare. Allora cavalchiamo ancora le onde sonore del tuo disco, Claudio, proponiamo ancora agli ascoltatori l'ascolto di un altro pezzo, e mettiamo il Déjà Vu. Mettiamo il Déjà Vu. mettiamo il déjà vu, benissimo, mettiamo il déjà vu, che dice Wimmer's déjà vu, l'abbiamo già visto, non sì. è il déjà vu classicamente inteso, è che spesso si crede di fare qualcosa di nuovo, quando in realtà ci sarebbe soltanto andare a studiare le abbondanti, ricche, profonde, importanti tracce che da secoli, secoli e millenni altri hanno già lasciato per i posteri che siamo noi. Certo. Bene, allora ce l'ascoltiamo. Rock Wave, l'onda del rock. Come si scivola sopra il fango di ogni malizia ancora. Le seduzioni e le convenzioni ti travestono da nemico. Droghe pesanti, sonno profondo, quelle cinture sono catene. Lanciate per le strade, portano fuori direzione, una sentenza. Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Claudio Rocchi in alto, questo è il titolo del suo ultimo lavoro. Questa canzone o canzonetta, come la definisce lui, si intitola Déjà Vu, un brano molto, molto complesso, molto di un ascolto, deve essere un ascolto attento a quello che si fa a questi pezzi, perché ci si perde a volte. Claudio, cosa dici? Sì, guarda, da qualche parte perdersi è la condizione sine qua non, la condizione essenziale per ritrovarsi, perché non ci si può mai trovare partendo da un concetto errato di identità, no? Tutto l'assunto sapienziale che circola sul pianeta, declinato in tutte le tradizioni, dice che l'idea che abbiamo di noi stessi è spesso illusoria. In sanscrito maya significa ma, significa ciò che, e ya è la negazione, ciò che non è. Ciò che non è è quello che crediamo di esserci, di essere. Quindi, a meno che noi non si perda l'idea sbagliata di noi stessi, non c'è speranza che ci si possa trovare. Se mi concedi al volo, farei un velocissimo excursus sugli amici che postano su Facebook, perché sì, alcuni danno degli input interessanti. Nick Ross dice che questa idea di politica che ho accennato brevemente gli sembra eccezionale e seguirà queste utopie con interesse. Grazie Nick, chissà se un giorno scenderemo veramente in questo nuovo campo playground. Angelo Viandante Celeste dice grazie, le argomentazioni che portate in radio stasera non si ascoltano spesso, e ringrazia. Antonio Coppola, se uno crede che in quello che crea ci mette passione, bisogna anche che tutto questo gli venga riconosciuto. Ah, ecco, perché più in su è entrata, come nella discussione su Facebook, l'idea, l'avrete visto sicuramente voi che fate radio e siete professionisti, Rolling Stone, il mensile, sì, ha pubblicato un elenco di 100 dischi italiani più 100 dischi italiani più importanti, insomma quelli che contano. Non c'è il tuo classica... però Claudio, come mai non hanno messo un tuo disco? Assolutamente. Come mai non hanno messo un mio disco? Esattamente. Perché i giurati, credo una ventina, che hanno selezionato, ai quali hanno chiesto di esprimere ognuno 10 preferenze, nessuna di quelle 20 persone, o forse poche o troppo poche di quelle 20 persone, hanno fatto il mio nome nella lista, è un fatto matematico. Uh-huh. Ora che ci sono dei punti, dei risultati abbastanza stravaganti, sì, sorprendenti, però non bisognerebbe mai sorprendersi più di tanto, perché di fatto non c'è nessuna malizia in questa operazione. 20 persone hanno fatto quelle scelte, il risultato delle loro scelte è quella classifica, è la classifica di 20 persone, sì, insomma non dovremmo andare più in là come i significati di questo poll, certo, certo, no? Di questo sondaggio. Mentre invece mi piace parlare, Susanna Schimperna ad esempio mi dice che ultimamente ci sono state delle polemiche garbate, per la verità, abbastanza in certi casi, in alcuni un po' di meno, sul fatto che io, che sono in promozione per questo disco adesso che è uscito da poco a fine ottobre, la settimana scorsa ho fatto un giro di interviste a quotidiani, stazioni, sì, radio, tra le altre cose mi è capitato di avere un'intervista pubblicata a pagina intera sul quotidiano Libero, che è un giornale di destra classicamente, sì, inteso. A Milano ho fatto un'intervista dal vivo a Radio Padania, che è la radio della Lega Nord, sì, però ho fatto anche un'intervista a Radio Popolare, che è la radio classica del network di Radio Popolare, un network di radici assolutamente di sinistra. Poi ho fatto una diretta alla radio Confindustria, al Sole 24, sì, Radio 24, che è del Sole 24 Ore. No? Con Cruciani? Voglio dire, io vado ovunque a parlare, questo colgo l'occasione per fare un punto di chiarezza. Anzi, se mai io avessi un atteggiamento critico verso qualche area di pensiero, di cultura o di politica, è proprio in casa di questi cosiddetti, tra virgolette, oppositori che mi piacerebbe andare a parlare per portare un contributo dialettico, critico, no? Per cui la posizione di chi pensa che io tradisca la sinistra se vado in una radio di destra o tradisca la destra se vado in una radio di sinistra, mi fa sorridere nella migliore delle ipotesi, nella peggiore magari se mi prende in un momento di sconforto quasi mi infastidisce, perché dico ma è possibile ancora che in questo benedetto 2012 siamo alle soglie forse di farla finita col pianeta, se il calendario Maya ci azzecca questa volta. Siamo il 21 dicembre, stiamo tremando, non arriverò. Siamo ancora qui intrappolati, no, nel gioco degli opposti, bianco-nero, rosso-nero, a destra-sinistra, ma stiamo scherzando, ragazzi, siamo esseri umani. Siamo cittadini prima di tutto, no? Cerchiamo di non essere così allucinati e lobotomizzati da non riconoscere più nemmeno la nostra posizione, la nostra caratteristica, la nostra qualità intrinseca che ci definisce. Siamo esseri umani. I partiti politici non ci rappresentano. No, personalmente non mi rappresentano le religioni, non mi rappresentano i partiti politici, non mi rappresentano le squadre di calcio, non mi rappresentano nemmeno i linguaggi musicali, nel senso che ognuno è libero per fortuna di saltare qua e là, un giorno fa la musica classica, un giorno fa l'elettronica, un giorno fa il rock and roll. E così io credo che per quello che riguarda il pensiero ognuno dovrebbe sentirsi un uomo o una donna, ovviamente, certo, libera, no? E guai a chi volesse impedirci di andare a parlare nel campo dei cosiddetti avversari, ammesso che esistano degli avversari. Tra l'altro testimonio che in ognuno di questi campi apparentemente opposti ho trovato persone di grande intelligenza e di grande apertura, così come sono sicuro in ognuno di quei campi, andando a cercare bene con l'alternino, avrei potuto incontrare sciocchi o imbecilli addirittura. Non è che l'imbecillità o l'intelligenza sono dominio di una parte politica, culturale, storica, ideologica o religiosa. Dovremmo farla finita con la separazione che deriva dal declinare tutti questi ismi, intellettualismi e tutti gli ismi, razzismi e spiritualismi cosiddetti, no? Che in realtà poi separano, dividono, fanno a pezzi l'unità. E l'unità non è un concetto da quotidiano vetero comunista, l'unità non è nemmeno un concetto da yoga, in sanscrito significa unione, unità. L'unità è la realtà, perché l'esistenza è indivisa, è solo un'illusione che la fa sembrare separata. Siamo tutti organismi che in qualche misura contribuiscono come in un perfetto grande orologio, piccoli denti di un meccanismo universale, ognuno ha la sua funzione, in un corpo unico, per questo che rovinare il pianeta significa fare un graffio a noi stessi, per questo che non abbiamo interessi disgiunti da quelli degli altri esseri umani e nemmeno non umani. Io credo che gli animali debbano avere la dignità di vivere la loro vita senza essere aggrediti e violentati senza necessità. E dico senza necessità, e qui non me ne vogliano quelli che non sono vegetariani, io lo sono da più di 40 anni. Perché ho sempre amato gli animali e francamente non sarei capace di mangiarmene uno dopo avergli tirato il collo piuttosto che, ma capisco le ragioni di quanti per cultura, per abitudine, per tradizione non possono nemmeno sentire questi discorsi. E qua ce ne sono vorrei che anche loro capissero invece le ragioni soprattutto di quelli che hanno questa sensibilità, sì, e che si auspicano che se non è necessario ammazzare per vivere, facciamola finita. Allora, Claudio, vogliamo parlare anche un attimino di quello che è il tuo lavoro, quindi la copertina del tuo disco, che inizia con un cielo davvero meraviglioso, con questo blu contrastato dalle nuvole e in basso ci sei tu con la chitarra. Però quello che fa più, come dire, impressione positiva è la parte interna, dove tu hai una fotografia di una stella, di una costellazione. Di Rigel, vogliamo parlare di questa stella meravigliosa? Sì, nella lingua loro chiamano la loro stella Rigel e per loro, voglio dire, cercate di non sorridere se siete capaci, quelli che vivono su quella stella, Rigel con la G dura, no? Rigel è una supernova, è una super gigante blu, sta a quasi 780 anni luce dal sistema solare e sta a sud della cintura di Orione. È una stella ben nota nei tempi, nei secoli e nei millenni a tutti i naviganti, e se la grande acqua da attraversare è quella della coscienza, diciamo che siamo tutti naviganti. Ha una caratteristica questa stella, è visibile da tutti gli oceani del pianeta, perché ha una posizione molto vicina all'equatore celeste. Questa stella la troviamo nelle tradizioni le più disparate. Gli arabi la chiamavano Rigjal Soha al-Jushra, che significa qualcosa come il piede sinistro di colui che è centrale. Colui che è centrale è Orione. Se avete in mente la costellazione di Orione, c'è questo gigante che a un certo punto ha anche una cintura, sì. Le stelle sono quelle della cintura, poi c'è il piede, ecco così, c'è tutta questa raffigurazione. Per cui Rigel è a sud della cintura di Orione, ad est di Saif. Ed è una stella enorme, è un sole, e chi volesse obiettare che non si può vivere nel sole, io ricordo che, che di certo non si può vivere nel sole con un corpo umano, che si brucia in un nanosecondo, ma non esistono solo i corpi umani nell'infinita sterminata realtà dell'esistenza galattica e ultra e metagalattica. Esistono tanti corpi diversi, per cui ci sono corpi adatti per vivere nelle diverse circostanze. Non a caso esistono tante diverse specie di esseri viventi. Secondo l'assunto vedico, ognuno si trova a vivere nella forma che meglio veste la sua coscienza. Per cui, per dirle in modo molto riduttivo, se qualcuno dovesse mai lasciare il corpo nella forma umana con una coscienza da grillo, ecco, state sicuri che per stare bene con una coscienza da grillo, il corpo più adatto è un corpo di grillo, no? Ed ecco servito il grillo. Cri cri, signori, le choses sont faites. I benissimo. Giochi sono fatti, l'altro giro, olè, capito? No, io ho messo questa dedica a Rigel perché è una stella che mi è molto cara, con la quale sento un lontanissimo ma molto vivo rapporto personale di storia, di vita, di esperienza, di passato, di presente e con tutta probabilità di futuro. Non è una stella buttata lì a casa tra i miliardi di stelle che ci sono nel cielo, è una stella che mi è molto vicina. Bene, parliamo ancora di un'altra canzone che vorremmo ascoltarci adesso, parliamo di Alchimia. Alchimia. È il tuo manifesto, Claudio, il tuo manifesto, noi l'abbiamo scelta per metterla su durante la settimana, è il tuo manifesto assoluto, secondo me. Alchimia, ci siamo, il punto, siamo al punto focale, no? Prendere il ferro e trasformarlo in oro, prendere l'ignoranza e trasformarlo in conoscenza, la discordia, l'ipocrisia in concordia e accoglienza e verità. Ecco, l'alchimia è nelle tradizioni sapienziali l'arte sottile, l'arte migliore nella quale ci si possa impegnare per diventare artisti di un certo spessore e significato. Chi non vorrebbe trasformare di questi tempi una rete metallica in una rete d'oro scintillante? Ecco, penso che faremmo la fila. Allo stesso modo, chi non vorrebbe trasformare la sofferenza che vive, mentale, psicologica, la paura, la mancanza di prospettive, in visione, in forza, in certezza, in risoluzione, in apertura. Ecco, l'alchimia è questa, e sta a noi, e ci agganciamo al discorso di prima, ognuno al suo posto, senza andare troppo lontano, dentro il suo nucleo familiare, se ha una famiglia, con la prima persona che incontra per strada, se non ha una famiglia, vive da solo in assoluto, sta a noi cambiare la semantica proprio delle nostre relazioni, metterci gli uni davanti agli altri, prima di tutto con rispetto e poi con voglia di ascoltare. Amiche e amici, e lo dico a me stesso quando mi guardo allo specchio, quando non siamo capaci di ascoltare non c'è speranza che nulla cambi mai, perché la conoscenza arriva dall'ascolto. Upanishad, che è un'espressione sanscrita che dà il titolo a una vasta serie di opere importanti, in sanscrito significa seduti ad ascoltare. Quindi la radio è un veicolo straordinariamente vicino al punto preciso per fare la differenza, perché la radio si fa ascoltare e la radio si vuole ascoltare. E quindi viva la radio, viva Blu Radio Veneto. Grazie, grazie, grazie. Vabbè, Claudio. Ascoltiamoci Alchimia. Allora, ci ascoltiamo Alchimia, poi torniamo ancora per parlare con te, Claudio, per parlare poi delle tue prossime date e per anche salutarci, per dare poi la linea a Effetto Notte Italia. Perfetto. Bene, allora ci ascoltiamo Alchimia. Rockway, l'onda del rock. steccati e recensioni. Alzo gli occhi e vedo grafici e chimiche nel cielo. E c'è chi vorrà vendere anche l'acqua che è di tutti. Resta solo il fuoco naturale di luce. Forse sono che da secoli e millenni ci fa schiavi. Forse è solo per pigrizia che è cambiato così poco. Forse è solo che il potere teme spegne gli ideali. Ma dobbiamo essere svegli, forti, lucidi e precisi. Oro contro il ferro di discordia e ipocrisia. Oro contro il ferro. Di discordia e ipocrisia. Steccati e recezioni. Alzo gli occhi e vedo grafici e chimiche nel cielo. E c'è chi voleva vendere anche l'acqua che è di tutti. Resta solo il fuoco naturale libero a bruciare. Serve oro contro il ferro, discordia e ipocrisia. Oro contro il ferro, discordia e ipocrisia. Oro contro il ferro. Discordia e ipocrisia. L'onda del rock. Abbiamo ascoltato anche Alchimia, Claudio Rocchi in alto si intitola il suo ultimo lavoro e abbiamo scorso con lui alcune tracce di questo bel CD, molto difficile da ascoltare come primo impatto, però è un disco che poi conquista, come d'altronde eravamo abituati da certamente Claudio Rocchi. Alchimia, Claudio, è la tua essenza al 100%, secondo me ritorna alle vecchie amori e ai nuovi amori, non ci sono confini, c'è una spiritualità musicale aperta al 100%. Grazie ragazzi, tra l'altro proprio che parliamo di Alchimia, voglio dare ancora una volta credito per Alchimia al contributo veramente notevole dei miei giovani amici musicisti Michele D'Amato, chitarra elettrica, e Flavio Austini, quel contrabbasso così poco ordinario, assolutamente straordinario è suo. Loro sono due dei Vertical Project e ci sono anche le tastiere di Katia Fiorentino. Ecco, questo è il pezzo che più abbiamo fatto insieme con un organico da gruppo, e il suono di Alchimia assomiglia, fra tutti i pezzi del disco, a quello che più è il suono di noi come band quando suoniamo insieme. Quello dal vivo praticamente al 100%. Sì, è vero, Alchimia è un link fra certa mia musica già fatta e la musica che ancora deve essere fatta. Certo. È sicuramente un pezzo di passaggio dove io stesso trovo dei modi e dei linguaggi che riconosco in me come miei, diciamo. Ecco, Claudio, vogliamo ricordare anche i nostri ascoltatori e chi ci sta seguendo tramite lo streaming audio quelli che saranno i tuoi prossimi concerti, sia in versione solista, ho capito che c'è quella parte, sia in versione band. Sì. Dunque, io intanto ricordo a chiunque fosse all'ascolto che sono raggiungibile ovviamente su Facebook con un profilo Claudio Rocchi Volo Magico, con una pagina Claudio Rocchi, anche perché da lì poi si trovano i link per altre mie realtà di rete, ad esempio un mio servizio novità che curo personalmente. Adesso non sto a dare gli indirizzi perché sono troppo lunghi e complicati, ma che comunque da Facebook si può arrivare a tutto, che aggiorno appunto tenendo informati sulle date, le novità, i programmi radio, le interviste e tutto. Per adesso posso dire con certezza che sarò dagli amici di La Spezia il 30 di marzo e agli amici di Asti il 1 di aprile. Per questo, nei due mesi che separano da queste prime date, sono impegnato, lo dico in anteprima assoluta, a chiudere due nuovi dischi che usciranno ad aprile, miei. Bene. Nuovi nel senso nuove pubblicazioni, non nuovi nel senso che sono materiali che erano sfuggiti finora alla pubblicazione. Ah. Uno saranno entrambi sia in vinile 33 giri che in CD. Bello. E uno si chiama Mirage ed è un mio lavoro nel momento della musica elettronica, quello della fine, dopo i miei primi 7 album, il passaggio dall'Ariston alla Cramps appunto nel 76-77, sì. Mirage era una performance audiovisiva, allora non c'era il digitale, io giravo dei film in Super 8, li montavo con la moviolina, proprio taglie e cuci, con il taglierino, il nastro adesivo, come si facevano i montaggi una volta, e usavo 3 proiettori Super 8 a proiettare queste immagini che preparavo su una scena fatta di un sintetizzatore VCS3, alcuni Revox e alcuni strumenti che suonavo dal vivo. Quindi una performance, diciamo, audiovisiva, elettroacustica, elettronica del 1976, inedita, che hanno visto in pochi, soltanto quelli che a Milano, quelle 3 sere in cui l'ho fatta in un locale, sono venuti e l'hanno vista in diretta. Quindi ora tutto è digitalizzato, ci sarà un DVD con le immagini e il CD o l'LP per la musica. E poi, e questa a voi ve la regalo come una chicca proprio dedicata a voi, uscirà un altro disco che si chiama Claudio Rocchi Live in Padova. Ah, dai, fantastico. Perché sono riuscito a mettere in archivio, ad arrivare a certi miei nastri registrati in tre diversi momenti, fra il 73 e il 75, in 3 diversi concerti fatti a Padova, tutti a Padova, uno in un locale e due, uno in una piazza e uno ad una manifestazione sempre all'aperto, e nel giro di 3 anni, il 73, 74 e 75, ci sono tre Claudio Rocchi sensibilmente differenti. Il primo è in trio con Lucio Fabbri e Lorenzo Vassallo a fare le canzoni fino a La Norma del Cielo, perché quello era il disco ultimo fuori in occasione di quei concerti del 73. Mentre invece il secondo prende alcuni pezzi che sono dal disco Essenza, e il terzo è un Claudio Rocchi ultra politicizzato, che è a Padova a fare insieme al Partito Radicale una campagna, non so più per quale causa, fra le molte giocate insieme per l'Italia, dove non c'è nessuna delle mie canzoni più tradizionalmente note, diciamo, dai miei dischi, ma ci sono tutta una serie di inediti assoluti che sono nello spirito così di quell'utopia politica, di architettura politica che adesso nella maturità sto rispolverando. Bene. E quindi chissà cosa succederà. Sta di fatto che usciranno questi due dischi e che preparo appunto in questi prossimi mesi. E ci fa estremamente onore che ci sia anche il nome di Padova, soprattutto su questo. Mettiamoci d'accordo. Sì. Quando esce Live in Padova dovete tenerlo a battesimo e facciamo lì in diretta qualcosa. Certamente, assolutamente. Tieni conto, Claudio, che questa è stata una promessa registrata. Anzi, cogliamo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che questa registrazione della trasmissione, così come è venuta, sarà postata all'interno del nostro sito internet, quindi bluradioveneto.it, e quindi gli ascoltatori, qualche traccia che si sono persi, possono anche riascoltarla. Perfetto. Ecco. Io ringrazio voi e ringrazio tutte le amiche e gli amici che hanno continuato a postare su Facebook, dando un'interazione dinamica alla nostra diretta radiofonica, e buonanotte a tutti. Prima di andare, Claudio, noi lasciamo lì andare. Sì. Però non è dedicato ai nostri ascoltatori quella canzone. No, assolutamente. Ecco, diciamo di alcuni sì. Alcuni di quelli che dovevamo lasciare andare ce ne sono già andati, alcuni. Sì. Altri ancora sono in lista d'attesa e se ne devono andare velocemente. Benissimo. Perché soprattutto noi dobbiamo fare spazio. Questo è il grande insegnamento dell'ottimo Lao Tse. Lao Tse è il grande maestro che ci ha regalato il taoismo come sistema di pensiero. Lao Tse ha teorizzato l'utilità del vuoto. A meno che noi non si riesca a fare vuoto, non si potrà mai riempire con qualcosa di nuovo. Per questo è opportuno che alcuni escano di scena, perché sulla scena possano entrare altri, alcune istanze escano di scena perché ne possano entrare delle nuove, diverse. Questo è il senso anche, io direi, della lettura più credibile di questo 2012, dove dovrebbe finire qualcosa. Ecco, sapete cosa dovrebbe finire nel 2012? È la fine. Sicuramente dovrebbe essere la fine della discordia, dell'ipocrisia, dell'ignoranza, della prevaricazione, della cecità, dell'arroganza, della malizia, ecco, la fine di tutti questi mondi inferiori che tolgono luce, questa è la verità. Bene, allora noi ringraziamo Claudio Rocchi per questa... Vorrei fare un saluto speciale a Susanna Schimperna, che mi ha contrappuntato qui in diretta su Facebook, e che ben più intensamente contrappunta con grande intelligenza, calore e vicinanza le mie avventure di uomo. Ci aggiungiamo anche noi i saluti di Susanna, grazie di essere stata con noi anche in questa trasmissione. E allora ricordiamo Claudio Rocchi, il suo ultimo lavoro si intitola In Alto. Noi salutiamo Claudio Rocchi. Tra l'altro, leggo adesso, Susanna dice che forse adesso, quando avrà moltissimo denaro, metterà in piedi un network radiofonico e prenderà i migliori DJ di tutte le stazioni italiane per fare una Supernatural, la grande radio del futuro. Facciamo il concorso. E se c'è qualcuno tra di voi, si mette in lista. Bene. Va bene, lo faremo ben volentieri, anche perché sai che noi qui della radio siamo assolutamente volontari, si può assolutamente dire. Sì, noi facciamo la radio perché ci piace fare radio. Bene, grazie, allora amici, davvero. Allora, Claudio, ancora tante cose, ci vediamo presto, e ti abbiamo strappato un appuntamento a Padova e quindi sei di nostri. Un'ultima cosa voglio dire ad amici che mi scrivono che hanno qualche difficoltà a reperire il CD. Allora, il CD è in distribuzione, è di etichetta Cramps, in qualunque negozio di dischi, se non è lì negli scaffali si può ordinare. se proprio aveste più, non aveste voglia di aspettare, la Cramps è anche in internet, ovviamente si può ordinare direttamente a loro a cramps.it. Si chiama In Alto, è il mio 19° e grazie a Blu Radio Veneto ne avete ascoltato quasi la metà questa sera. Bene. Quasi la metà, sì, perché diciamo non abbiamo mai detto che sono 11 le canzonette sono che 11. Hai composto, sì. Non a caso, 11 è un numero di soglia, tutti i multipli sono benedetti, il 22 è un gran numero, ma il 23 è ancora meglio, perché è la dinamica del mutamento. Bene, allora torniamo ai saluti. Claudio, grazie di essere stato con noi. E salutiamo anche tutto il popolo di Facebook che ci ha seguito in questa conversazione, ha dato ottimi appoggi anche a Claudio e quindi noi ci salutiamo anche io saluto Maurizio Casavara, gli auguro una buonanotte. Grazie altrettanto, ecco, a te e grazie a Claudio, questa solita meravigliosa cavalcata che continua e continuerà in qualche altra trasmissione, Claudio, sicuramente. Bene, fantastico, grazie ancora a Blu Radio Veneto e buonanotte a tutti. Bene, ciao, buonanotte. Buonanotte Claudio. Allora ci ascoltiamo, lasciamoli andare e noi ci salutiamo. Bene, buonanotte a tutti. Rockway, l'onda del rock. Banda di attori vorrebbe guidare la mia società, ma è riuscita soltanto a portarmi lontano, lontano, lontano. E cresce il partito di quelli che adesso non votano più, ci andiamo a riprendere il cuore ideale, il presente, il futuro, le deleghe in mano. Salvo poche eccezioni, patite circuiti da gran varietà. Una classe di gente che andrebbe soltanto lasciata sparire. Una classe di gente che andrebbe lasciata soltanto sparire. Lasciamoli andare. Lasciamoli andare. Blu Radio Veneto. Effetto notte in Italia. È una notte in Italia, se la vedi. Effetto notte in Italia.